No, vabbè, intanto non l'ha conosciuto come antenna. È una prova che ho fatto, è una specie di antenna discone da macchina, c'ha vari fili risonanti per varie frequenze, però si tira dentro un bel di rumore. Cioè, se tu usi l'antenna in macchina a stilo VE1, per dire, con ricevitore, niente bau bau, niente schifezze, con ricevitore che riceve quello che deve ricevere, non hai il QRM sui canali in memoria, come metti quella ti tira un bel di rumorini, di frusci, di cose strane, capito? Si porta via, si attira tutta la mondezza anche delle altre frequenze, che siano cellulari e roba del genere. Ho provato in macchina, ho fatto all'andata con un'antenna, ritorno con quella normale, no? E purtroppo, come la discone, si tira dentro mondezza, troppa. La discone va bene se vuoi trasmettere un po' dappertutto, tipo se vuoi usare il trasmettitore FM, magari riesci a farla risuonare, no, bene o male, in una frequenza di quella banda 80-808, però per i ricevitori è un casino. La cosa migliore sarebbe per me, per ricevere benino, una X30 sul tetto. Quello che mi preoccupa è la lunghezza del cavo, sono troppi metri, Antonè. Mi dispiace, ma 50 metri, anche se metti l'H155, secondo me il segnale giù non arriva. Cioè arriva talmente attenuato che tanto vale tenermi l'antellino sul terrazzino, capito? Sì, vabbè, non è che... già ci stavo bene, cavo. Perché sto entrando in... si trova già, adesso quando fanno la vendita di tutto quello che c'aveva Tonino, non sai la roba che ci sarà. La troveremo senz'altro lì, da quel napoletano, non vedrai, piglia tutto in blocco quello. Si presenta, è come un avvoltoio, quando muore qualcuno che c'è il negozio, fallisce, immediatamente va lui con i soldi e si ritira tutto. Appena fanno l'asta di tutto quello che c'è dentro, vedrà che si presenta lui. Ma GBC non era stato rilevato da Fusaro o lo voleva rilevare? La marca c'era già alle GBC, capito. Adesso non lo so la roba che c'è dentro quel negozio, cosa fanno i parenti, se chiameranno qualcuno, senz'altro che metteranno tutto quanto all'asta, capito. Faranno un giro di conti di quello, tutto quello che c'è, eccetera eccetera, dopo di che lo prenderanno all'asta, vedrai. Lo metteranno lì a Pedranietta e poi il primo che chi va di là si occupare già tutto. Sì, ci restano un sacco di materiale, roba audio, roba radio varie, di tutto di più c'è lì, pannellini solari, mi ricordo, quei kit solari da mettere sui camper, sai? Un bel di roba c'aveva, ma che ne aveva pochi, la verità, antenne altrettanto, cavo dovrebbe avercene, LG 213, eccetera eccetera. Quando prenderanno tutto, cioè arriveranno i parenti e daranno tutto all'asta, vedrai. A parte che prima bisogna svuotare tutta quella mondezza che c'è dietro il bancone, ci vuole la ruspa, ci vorrà. Poi faranno un giro di conti di tutto quello che c'è nelle scatole e negli scaffali e, capito, il primo che fa l'offerta, magari si porta via tutto, magari a metà prezzo pure, niente di strano. Antonè, devo fare un attimo di bianco, se posso rientro dopo, ok? Se no ritieniti salutato, ciao. Sì, va bene, già sono qua ad ascolto all'inizio. D'accordo, a dopo, dai, ciao. Antonello, ci sei? Sì, il Queen 2. No, cosa dovevo di cosa? Dovrebbe essere 200. Vai Queen 2. A parte l'unica cosa serve quando aprirà, se aprirà, quando aprirà la figlia su, voglio recuperarmi molte more 2. Non so perché te l'ho detto, Antonio, si sentiva lo stacco, ta-ta, perché nell'ultimo dei due gli avevamo silenziato il bip, no? Però nonostante fosse silenziato, si sentiva lo stacco della portante e poi il bip non si sentiva in quanto silenziato, e sembra un ta-ta quando stacchi. Ah, no, il bip è solo che stia funzionando. Stava funzionando appena poco fa. Forse perché ho scherzato veloce. Fa cuffia. Aspetta un po'. Hola, hola, hola, hola. Ok, lui. Vabbè, non lo senti. Ciao a te, ciao a te. E tu sei solo là, in postazione? Ehi Simona, in camera da letto, adesso ho dato le mandarine da mangiare, una pera e poi la tachipirina, perché è appena calda e con freddo addosso. C'è la stufa accesa, io la mia l'ho spenta, se no cazzo, ma ammazza la luce a me. Io non ti volevo dire, Antonio, se potevi un po' vigilare, c'è un po', sto facendo un po' da monello, presumo, tuo nipote, capito, Antonio, è bella la radio, però un conto il PMR un po', però cerca di capirmi al volo, dai. No, perché poi ci passi tu. Ma lui è a casa sua, non è a casa mia. C'è l'antenna esterna, quindi a me non può, non, cioè non può rompermi le balle. Lui c'ha l'antenna sua, piazzata, nel terrazzino, c'ha quella della 27 e l'altra. Per parlare in PMR, ci sono tutti e due piazzati in terrazzino, quindi no. Già glielo dico comunque, perché io non è che ci sia sempre a baracchino, già lo sai, sono sempre, non sto più entrando, quindi non so manco quando entra lui, figurati tu, già glielo dico appena lo vedo. Io, vabbè, no, perché sai, anche quel giorno che noi eravamo al telefono che mi hai detto il Tonino, no? Che tu eri a piedi e stavi tornando a casa, c'era qualche disturbo di troppo, ma in banda un po' delicata, cerca di capire a me. E vabbè, di lì darti un po' una calmata, perché non va bene, dai. Perché hanno rilevato anche il segnale, cioè quando dicono via Milano Alta, dietro via Milano Alta, si comincia a capirci, no? Ho capito. Vabbè, c'è di ricco. Sai, non ci sono quasi mai qua, tanto meno sono entrato in PMR, mi è creato dopo le balle accuse, quindi fronte in PMR e basta, poi non so se vado in altri posti a rompere i marongrassi, questo non te lo so dire, perché non lo sto seguendo, quindi già glielo dico. Dico, passi bene, devo andare a rompere le palle a nessun altro. Naturalmente, Antonè, questa non è una critica, cioè lo dico per il vostro bene. Già lo sai, no? Noi siamo abbastanza corretti. Lui ragazzino magari è un po' esuberante, da chiuso il discorso. Va bene, io ho messo nel frattempo la lavatrice. E così, quello che devo fare, il grosso che devo fare in casa l'ho fatto, pensavo nel pomeriggio mi volevo un po' riposare, no? Per questo freddo intenso che sentivo, ci ho pigliato l'aspirina come ti ho detto, poi vabbè ho sentito te, allora ho attaccato bottone, dai, tanto la serata è lunga, mi di domenica, di domenica non passa più. Ah beh, quello sì. Che ora mi sta rompendo le palle, come si chiama? Sul telefono, capito? E a volte quando mi metto a parlare su Facebook qualcuno, non Facebook, su Messenger, cazzo, mi persegue da ascolta, cazzo, mi dice, ma quanti telefoni c'hai? Hai capito? E io dico, boh, cazzo, gira, mi devo controllare gli altri, su che parlo. Ogni tanto mi arriva una chiamata d'amicizia, come è arrivata stasera, cazzo, si voleva per forza il numero WhatsApp, io ho detto non ne ho. E non te che me lo chiedi. Ma sono innamorato di te, ti amo. A me non me ne frega niente, gli ho detto. Puoi andare pure a far culo. Poi cosa ti volevo raccontare, Antonio, boh, di altra roba. C'è la moto a terra, la rotta da cambiare, ovviamente già che ci sono ne cambio due. Sto aspettando che il tempo sia meno brutto mio, in modo da portarla dal meccanico a cambiare le gomme. Che non piova troppo, capito? Se no macello. Se no non la posso usare, con la moto faccio un bel di commissioni rapide, capito? La macchina in confronto una palla, trovare sempre parcheggio, eccetera. La moto basta mezzo metro e è parcheggiata. No, ti conviene uscire in moto, tanto vai di vicino. Io quando esco direttamente a piedi, come faccio sempre, e a volte quando vado da Nico prendo il tram, torno verso le 8:30, alle 9, capito? Vado per passare il tempo, perché sarei sempre chiuso dentro a casa, sarei appresso a Simona, non è così facile, capito? Già ne sai qualcosa anche tu, e se le stesse condizioni mie, figurati, quindi non c'è tempo di fare nulla. Ma cosa di usare il baracchino, non so l'altro. Per la mia alza immediatamente devo fare la valentella, fare i piatti. Dopo che faccio i piatti faccio tutto il resto che c'è da fare a casa, poi vado dallo spin, poi vado da cosa, poi mi fermo un po' al Silis, bevo una birra, poi rientro a casa e faccio sempre le due, qualche cosa, due e mezzo a volte, poi rientro a casa, mi guardo la TV e mi accendo la televisione per passare l'ora. Tanto mi ho venduto il telefonino, si è diventato un troiaio adesso, sembra diventato vai a parlare, ti chiedo l'amicizia e poi ti do un po' pure le palle queste qua a chi ti insulti. Poi ti arrivano le foto porno, tipo quello di Siva di CIS, ce ne sono poche di foto di Cota de Pablo, la metà sono tutte con l'intelligenza artificiale, tutte dalla Nigeria, dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera. O spagnole, adesso ci sono le colombiane, poi ci sono le ragazze stanno cercando, come si chiama, italiani per sposarsi, le cinesi ci sono, dice mi sposi e poi dopo due giorni mi divorziamo, uno gli ha detto, grazie Giovanni, per la bella cittadinanza, capito? Sì, io avevo sentito anche che lo facevano a pagamento, tipo, che ti davano dei soldi per sposarti, poi ti davano la cittadinanza, cioè ottenevano la cittadinanza e poi potevi anche divorziare. Però non so se sia così facile. Immagino che comunque uno debba risiedere o figurare moglie per un po' di tempo, non credo che sia così semplice. Credo che sia anche legale. Cioè, fingere di a pagamento, non già lo sai, non mi intendo di questa roba. Sì, comunque internet è un troiaio ormai, ogni tanto mi contattavano su un'app di messaggistica, tipo nomi di donna, no? Ma sentite, gente non in elenco, io bloccavo subito, bloccavo già a priori. Allora c'è Facebook, poi WhatsApp, poi l'altro non mi ricordo, e poi adesso c'è questo Zanci come cosa. È diventato un casino, hai capito? Mi ha ricordato una cosa, Antonè, ai primi tempi di Skype, perché poi non erano proprio i primissimi tempi, io l'ho messo in ritardo, no? Tu risultavi visibile, no? Il tuo nome era visibile, bastava cercare un nome casuale in elenco. E mi ricordo che mi contattavano queste dalla Polonia, con quei nomi arrapanti, poi tipo Olga, Magda, capito? E attaccavano un bottone tramite audio o tramite WhatsApp o messaggi. Chiamata video no, anche perché non l'avrei attivata. E intanto loro mettevano un nome a caso, italiano, no? Come potevo fare io, mettere un nome estero. Gli appariva l'elenco e cominciavano a chiamare, a vedere chi potevano magari infinocchiare, cosa mi gioco? Hai detto bene, infinocchiare. Proprio così, adesso bisogna stare molto attenti perché un sacco di gente nel telefonino ci sta mettendo la carta d'identità, il codice fiscale, oppure la carta del banco, ma ti hai capito? Per fare la spesa più veloce. E un sacco di gente si trova infinocchiata perché se rispondi qualche messaggio è interrovento e si fanno doppione, capito? E vanno a passare la spesa alla faccia tua. Poi adesso tutta questa cosa del Calipo Tour, l'hai visto? Chinotto Tour, Calipo Tour, vabbè. Contento, forse anch'io l'avrei fatto, essendo una tipa moderna, attuale, però è poco edificante, capito Antonè? È diventata una cosa proprio terra a terra, squallida. Sì, sul chat, io so che la gente sta usando quella chat del business, quindi ti arrivano le foto, naturalmente non le puoi vedere con la legge nuova. Ma tutte le mandano lo stesso, non c'è niente da fare. Sai quante volte ho provato a bloccarle? L'ho bloccato un sacco di volte, elimina, nulla, durano 24 ore, 48 ore e poi tornano come prima. E ti arriva attorno e come si chiama? Guarda Antonio, ti ho mandato un messaggio, guarda Antonio, ti ho mandato un coso. Ogni volta devo aprire e eliminare, aprire e eliminare. Perché sono di questi giorni ho resetto tutto, resetto tutti e due i telefonini e così sono più tranquillo. Cambio l'account, cambio, almeno si attacca una puffa. Per non parlare della pubblicità poi, Antonio, è diventata una cosa allucinante, cioè prima trovavi pubblicità navigando col browser, no? Sulle pagine internet, tipo quello della nuova. Vabbè, la nuova è a pagamento, cioè se tu apri il sito della nuova ti dà due notizie in croce, così, no? Però è strapieno in pubblicità, è quasi innavigabile il sito. E quella era una cosa, ma adesso anche le applicazioni interne dello smartphone, tipo la galleria oppure il lettore video di dei Xiaomi, c'ha la pubblicità interna, cioè anche se tu non stai navigando nelle varie pagine internet ti arrivano pubblicità su pubblicità, tra cui anche Temu, una croce, cosa mettono lo slogan, compra da miliardario, cosa compri? È tutto ciarpame cinese, e cosa compri da miliardario? È ciarpame che costa poco e basta. Già lo so. Pieno di pubblicità, c'è Temu, poi c'è come la cazzo si chiamava l'altra, adesso non mi ricordo, Shani, una cosa del genere, poi ci arriva c'è Samara, quella turca, quella ragazza turca, e ha pochi follower, si fa le foto, è andata da poco a Napoli, è andata, meno male non hanno bossangiata, mezzo nuda, si fa le fotografie lì, capito, i negozi e poi le manda, tutte cose se le fa. Si chiama Tamara T-Mobile, quella che ripara i telefoni con quelle lunghe che sembrano artigli di tigre, non so se l'hai mai vista. Ah, le unghie lunghe. Esatto, sì. Tamara T-Mobile, tu guardatela, ogni giorno vestita con un freddo che vede. Tanto fesse mezzo luna, mi sembra Desiree Manca, ce l'hai presente Desiree Manca? Uguale, se tu la vedi, sempre mezzo luna. In Turchia già ci sono delle belle tippe, basta vedere le telenovele turche, non è come una volta che vedevi certe beduine bruttine, ci sono delle canne stratosferiche in Turchia. Anche non volgari, perché già questo delle unghie finte lunghe, mezzo metro, è una cosa un po' così da. Ok, Antone, io mi sdraio un po' che vedo che l'occhietto mi sta calando. Poi se c'è qualcuno più tardi vediamo se si può entrare, dai. E ci sentiamo, ok? Va bene, dai, non c'è problema. Adesso mi guardo un po' di televisione, mi guardo, così vedo cosa c'è di bello e buono. Poi c'è cos'è, Antone, che qua, te l'ho detto, in questa camera, siccome c'è il cavo del ricevitore, il cavo d'antenna del ricevitore, l'antenna, cioè la finestra non è proprio chiusa, c'è uno spiraglietto per far passare il cavo, no? E mi crea corrente con la mia camera, dove c'è lo stesso un cavetto sottile per quell'antenino che avevo messo sulla persiana. Mi crea un pochino di corrente, quindi sento freddo alle gambe. Anzi, oggi non c'è vento, vabbè, ma quando c'è vento devi sentire la ghiaccia che entra. E quindi adesso mi metto un pochino al caldo, sì, magari mi accendo anche al TV, vediamo se c'è qualcosa che vale la pena di guardare, ok? E quindi saluta Simona e ci sentiamo, Antone, ciao. Eia, d'accordo, già te la saluto. Sentiamo, dai, ok. A me l'ha fatto funzionare un pochettino il baracchino, da un bel po' di tempo fermo questo. Poi anche il cavo è acceso. Perché a volte faceva il giocatore caduto, ho toccato il cavo. E non ha più acceso il coso, il multimodemi, ma multimodemi, l'altro, quello che ho 20 anni, il 2009, quando glielo accenderò, allora se mi ricordo lo accenderò domani sera, perché tanto la mia tiene può uscire tutta la mattina, andare a posta e poi stare insieme a Gian Piero, che lo porta da lui in piazzetta e poi pranzerò e rientrerò qua e mi sdraio un po', perché portarci a lui in carrozzina dalla piazzetta qua su è un pochettino pesante. Via. Va bene, di nuovo Antone, ci sentiamo forse più tardi, ci vediamo, da. Se non mi addormento, ok? Ciao. Eia, ciao, a dopo, al limite. Dopo piazzo quel, come si chiama, quell'apparecchio, il Midland, che l'ho modificato. Va bene, al limite a dopo, là. Ciao Gianni. Allora, come va? sto bene da queste parti. E tu come te la senti? E io sono tranquillo, solo che c'ho un po' di bauccini, dimmi. Mi viene male alzare cantando e non posso cantare perché se no mi viene la voce rauca. Mi ha lasciato questa raucidi, se non occupa niente, caramella la mente a tutto andare, ma non mi fanno nulla. E questa influenza, stavo leggendo lo stesso su internet, che lascia uno strascico, anche ci vogliono almeno 20 giorni buoni per guarire completamente, capito? E evidentemente te la sei beccata di brutto. Poi sai che cos'è già? Che la sera fa anche molto freddo e umido, le temperature sono anche abbassate, anche se durante il giorno ho visto che già c'era anche il sole bello caldo, perché sono uscito in terrazzo perché il vento ieri notte mi ha buttato giù tutte le mollette per tendere i tubettini che erano sulla lavatrice, no? Ah, mi sono affacciato e toccato tutte le mollette per terra, quindi e ti posso dire che c'era il sole ed era anche piacevole, capito? Però poi la sera che aveva preso condizioni, se non ti copri, se non sei al calduccio, non si guarisce bene già anche il cambio. E sono le mollette necessarie, non hai visto che ne ha sradicato alberi in un viale che non so che viale sia, però l'ho messo su internet. Ha sradicato proprio rami grossi dagli alberi. No. Le notizie locali non le ho sentite. Oggi sono uscito stamane intorno alle 9 che mi serviva un pezzo di tubo, quindi sono andato da Tecnomat, però poi sono rientrato a casa e niente, e quindi non ho sentito niente, però era bello teso a un certo punto. Poi meno male che è calato, è durato solo un giorno, ho visto, e quindi meglio così. Io ieri notte ero in un locale, mi ha fatto una grandinata, si sentiva proprio la grandine grossa che scendeva, perché questa qui rovina le macchine, come minimo. E lì già l'hanno fatta una canzone, dai, ha cantato quel vento, già l'hanno fatta lo stesso. Sì, la grandinata già l'ho sentita anche io. Ieri sera sul tardi era, saranno state 7:30, le 8, è bella, bella tosta. Meno male che comunque ha piovuto in questo periodo, se non altro già serve la riserva idrica, perché ero preoccupato io, ho detto, se continuiamo così qua rimaniamo a secco e non ci danno acqua, almeno così se non altro riempie il bacino. Adesso pian pianino, già passerà questo gennaio, così dice che le temperature dovrebbero un pochettino migliorare dai prossimi giorni e vediamo cosa ne esce fuori. Ma questa grandine rovina tutte le culture, capito? Tutte le cose che hanno piantato, eccetera. Brucia tutto. E ancora roba di germogli, così non credo che ci sia tanto da far danno. Adesso forse carciofaglie, quella roba lì sì, perché la grandine brucia, capito? Perché se ce ne va in mezzo alle foglie, poi insomma la pianta la danneggia. Però roba di germogli ancora c'è poco e niente, capito? Quindi è durata poco, non è stata una grande grandinata. Quell'attimo che ha fatto era bella intensa, capito? Però qui è durata pieno 5 minuti, 10 minuti. Ciao Claudio. Buonasera Claudio. Ciao, buonasera. Stavo stemando fuori oggi. Non l'avevo fatto, che fa caridare. Danno ti ha fatto. Ehi, si è sradicato dalla veranda tutta la recinzione in legno, no? Quelle gratte in legno belle, guardate una barca di soldi, cazzo, mi ha sradicato tutto, un danno allucinante, quindi stavamo togliendo tutte le gratte, le cose. cose, pulendo, facendo. C'ho tutta l'erba per la legna per tutta l'estate. Che Claudio, ho sradicato alberi, immaginati. Io guarda, ero in un locale ieri notte, ma aumentava sempre di più sia il vento che la grandine. Che te non mi dava tutto. E casa c'è, all'inizio ci hanno messo nella veranda, poi siamo entrati dentro, quando ci è liberato un tavolo abbiamo chiesto di entrare dentro, perché si sentiva la grandine, ma aumentava sempre di più, sempre più forte. Ehi, qua era tutto bianco, grandine azzurro, vento, raffiche di vento fortissime, ma forti veramente. Ha fatto un bel danno, mi dispiace perché adesso rimettere tutto a posto è un casino, dovrei fare prima tutto il muro, mi ha tolto tutto il cemento, un casino, quindi bisogna che asciughi per mettere i tasselli di nuovo, devo aspettare almeno in primavera per fare tutto, adesso non faccio niente, pulito tutto, tolto tutta la legna, l'ho messa nella legnaia, già serve per fare per quando rostisci là. Non danno allucinante, cazzo, mi è dispiaciuta la cosa bella con la veranda, tutta cosa, quelle paratoie da un metro, sa un metro e venti, un metro e trenta, no? Ci sono tutte zigrinate, sono delle gratte, no? Il legno. E il vento, quello è che, insomma, il vento era bello teso, perché anche qua a me mi ha rovesciato un sacco di cose, capito? Solitamente, vabbè, io qua ci abito da un anno, altre volte ne ha fatto il vento, non era mai successo. Invece ieri ho trovato tutte le cose, il cestino delle mollette per terra, alcuni vasetti spostati, c'era un tappeto fuori dalla porta che pensavo che fosse andato in strada, invece l'ho recuperato, meno male si è bloccato nella ringhiera. Però una mezzo bufera, dai, quell'attimo che ha fatto forte ha fatto un bel casino. E Gianni mi diceva che ha buttato giù qualche albero pure a Sassari, non so dove. Già l'ha detto la TV, c'è un raffiche a livello di Mora, oltre 100 km orari, le navi non sono partite, sono partite stamattina, capito? Non sono partite le navi, non c'è stato né arrivo né partenza, sono partite tutte stamattina. Quindi, no, io fortunatamente alberi non ne ho all'interno del giardino, sennò mi avrebbe sradicati. Ce ne sono due fuori, ma sono lontani, quindi non me ne frega niente, sono indagini. Quindi la motosega rivolta a legna, non me ne affutti nulla. Il danno che mi ha fatto sono queste gratte che avevo preso al Bricomen allora, bellissime. E invece se li ha tutti i tappeti. E vabbè, pazienza. Si è attaccato anche le fascette dal tubo dell'antenna. Stamattina quando sono uscito, ho fatto bella giornata, esco, mi prendo un caffè, siete, ma rientro, mi ho rasato tutto il prato, mi sono a posto, ho fatto pulizia. Cazzo, se ho fatto la testa c'era il cavo dell'antenna a Mindurone. Ne ha tolto anche le fascette dal cavo della mantova, dell'antenna della 27. Adesso domani, tanto bella giornata anche domani, metto la scala e le rimetto. Vuol dire che ha fatto dondolare bene bene il cavo, capito? E che le ha sfilate, e il vento è, quando si mette ne fa di danno. E così è. Vai a te Gianni il cambio. Dai, l'interessante è che non sia successa cosa grossa, dai. Qualche danno che ha fatto così si può rimediare, prima o poi si rimedia. Poi, vabbè. E io guarda, in diretta l'ho sentito, perché le ho detto agli amici miei, quando fate la prenotazione, dite sala dove si canta. E loro si dice, vabbè, ma già conosciamo gente, ci trattano bene. Arriviamo lì e saliamo su veranda. Cioè, no, cazzo, una delusione. E il cameriere mi ha detto, guarda, come si libera un tavolo, vi sposto. E vi porto dentro dove si canta. E così ha fatto, meno male. Certo in veranda? No, signor Fredda. No. Assolutamente no, ieri non ho tolto testa da fuori. È venuta mia figlia, con uscita dal lavoro. mese ho ordinato ci uscire, la cocco la porta a casa, siamo stati benissimo a calduccio, ho chiuso tutti gli sportelloni, non si sentiva manco il vento si sente quando chiudo anche gli sportelloni, perché ho i vetri quelli grossi, dopo i vetri, capito? E qui non sentiva niente. Però, cazzo, quando ho aperto la a uscire, era tutto in terra, tutto sparso, legna a tutte le parti. Infatti mi ha tolto tutto, adesso non faccio niente. E quella cosa lì, quel danno lì, mi costa almeno 400-500 euro di nuovo, perché l'avevo fatto fare apposta, anche per non saltare il cane da una cosa all'altra, capito? C'è un gradino, e quindi l'avevo fatto fare apposta i due lati, e il metro centrale chiuso con queste gratte in legno, che erano anche belle. E invece vaffanculo. Non li farò, ma non adesso. No. Azzurra bubbiato tutto, arriva un'altra bufera, mi tratta di raddutto, no? Questa è in primavera, lo faccio fare Andrea, ha fatto bene. A me non so che è tassellato bene, ma ero sbagliato qualcosa e mi ha travicato i tasselli dal muro, ho capito già. Sì, no, la forza del vento, la forza del vento che si sradica i tetti, figurati se non può sradicare un tassello. E la forza del vento, c'è poco da fare, se trova qualcosa che fa attrito ne rappa tutto, qualche cosa che fa la vela, roba del genere, ne rappa tutto. Sì, perché entrava dal lato maestrale, quindi sotto la veranda, e tirava, spingeva e mi ha trattato tutto. L'anno scorso mi ha distrutto il salottino appena comprato, quello in Rimini, bellissimo, l'avevo lasciato fuori, si è messo una maestralata di notte, l'ha già avuto nel giardino, lo stesso tutto va a pezzi. Li sollevava e li buttava sopra il muro, e quindi l'ha fatta a pezzi, capito? Vabbè. No, le antenne, grazie a Dio, lampane, le antenne mie, io sono stato sempre molto, molto sicuro quando faccio un impianto d'antenne. Ho due piantoni da 60, fatti rugonto, con tasselli chimici, le staffe me le aveva fatte Fabrizio, di quelle piatte a tasselli, poi domani mi va. Assolutamente, manco tiranti, cioè io non c'ho niente nelle verticali. Di poli me l'aveva buttati giù gli agganci di poli, quelli dietro al giardino me l'aveva buttati giù i cinghiali. Allora abbiamo rimessi i picchetti con la massa un po' più giù e adesso ho visto che già stanno ottenendo. Avanti Carlo. Sì Danny, anche io ho lavorato ieri mattina e praticamente i voli, allora, quello delle 9 Milano-Linate non è riuscito ad atterrare, quindi stava arrivando da Linate, nulla da fare, ha fatto due tentativi dalla testata nord, lui ha provato, ha fatto il giro largo dall'altra testata sud, nulla, è andato a Olbia ad atterrare. Roma è andato a Cagliari addirittura, perché Olbia non aveva disponibilità, c'erano altri voli programmati e quindi è andato a Cagliari, quindi praticamente i voli delle 9, delle 11 li hanno poi cancellati, li hanno poi riprogrammati, quando è calato un po' il vento sono riusciti ad arrivare qua ad Alghero, perché qua era una cosa micidiale ieri mattina il vento che c'era, capito? E sono uscito un attimo in piazzale perché sono andato al controllo bagaglio da stiva, come giri dove c'è l'hangar dei vigili del fuoco lì, e ti devi tenere talmente forte, capito? Perché c'è vicino il mare, quindi entra un ventaccio in quell'angolo di aeroporto micidiale, guarda. Non è la prima volta che succede col vento forte, molti aerei non ce la fanno ad atterrare, capito? Quindi se ne vanno altrove. Vabbè, questa settimana è andata così. Vabbè, è così, Carlo, è così purtroppo. Quando quando c'è questo maestrale, questo vento così forte. Io qua purtroppo temo il maestrale e l'imbeccio. Quando mi arriva l'imbeccio d'Alghero è fortissimo lo stesso, molto molto forte, fa un sacco di danno, però io quando vedo già che c'è l'imbeccio leggero ne ritiro tutto. Ma non senti neanche a me, Michele. C'è un padre, sto parlando. C'è Michele, nascosto, non intende nulla. Vabbè. Dai raga, io vi saluto però, che c'ho da fare alcune cose, ma ancora accendo il riscaldamento. Ci sentiamo dopo magari. Riprendi Gianni. Ehi Elettra, a non intendere. Vai tranquillo. Avanti cazzo. Bene bene Claudio, non ti preoccupare, già siamo qua noi a fare quattro chiacchiere con Gianni, poi se vuole entrare qualcun altro basta che bussi e noi lo facciamo entrare volentieri. Avanti se c'è qualcuno che vuole entrare. No, continuiamo dai, mi piace tutti ascoltare, basta. Ma oggi è anche domenica, quindi ci sono partite, molti, o calcio, o basket, insomma, qualcuno si guarda la TV oppure fuori per vedere qualche manifestazione sportiva. E niente, io me ne sono uscito. Stasera alle 8.45 c'è Inter-Napoli, che è bellina da vedere. E il Milan invece stasera ha pareggiato, c'era stasera il Milan che giocava, mi sa che era, se non sbaglio, Fiorentina-Milan o Milan, no, sì, Fiorentina-Milan, stava vincendo e poi la Fiorentina mi sa che ha pareggiato quasi alla fine, niente, così, ma stavo vedendo i risultati, non... niente di più. Stasera mi sono dedicato un po', mi toccherò a casa a farmi un po' di pulizie, ho attaccato la lavatrice, capito, e ho pure steso perché non c'è più vento. E niente, domani rientro di sera già a lavorare, quindi domattina sono ancora a casa, domani c'è il turno dalle 13.30 alle 21.30, quindi intorno alle 10 poi ritorno a casa. Niente, l'impianto qua di riscaldamento già sta andando bene, me l'avevo regolato bene perché mi avevo messo il l'orologio, diciamo, il temporizzatore, quello digitale mi sono messo della piccina e praticamente riesco a comandare anche a distanza, anche quando non ci sono, con l'applicazione che mi sono scaricato, per cui quando lo voglio accendere, per dire, lo posso fare dal cellulare e così quando rientro a casa trovo già la casa calda, capito? Se no anche qua a volte trovo una ghiacciaia. Beh, no, è comodo, dai, è comodo, ti trovi il tempore in casa quando torni, è già una cosa bella, dai, adesso il progresso, fa di tutto. L'ho visto come mettono quelle serpentine, lo stanno seguendo su internet. Sì, no, ma più che altro che io essendo solo, ho capito, molte volte la mattina, anche se non lavoro, dopo che faccio colazione, così mi lavo, mi vesto, o esco a fare delle commissioni, o vado a comprarmi un po' di roba, freddo non è senso, quindi come ricucinare qualcosa, se cucina, capito, non ne sento l'esigenza di accendere il riscaldamento, poi a volte vado a lavorare di pomeriggio, per cui quando rientro a casa, intorno alle 9:30 alle 10 solitamente, a quell'ora lo accendo un'ora e mezza prima e quando torno a casa arrivo, capito, trovo la casa calda e poi intanto mangio qualcosina veloce, mi metto un po' la televisione, capito, e te ne stai tranquillo e pacifico, però non faccio troppo caldo, non lo lascio troppe ore, massimo lo lascio 3-4 ore, non di più, capito, ci sono giorni che non lo accendo neanche. In questi giorni lo sto accendendo perché le temperature sono calate parecchio e c'è bisogno, capito? Sembra così, se non riscaldi la casa poi si raffredda subito. Invece così 3 ore la sera, a volte 4 ore, ieri l'ho lasciato sino alle 22 perché ero in casa lo stesso, già diciamo si stava benissimo, capito? Mi sono visto un film, mi ho visto quello di Checco Zalone, l'ultimo, quello del cammino, eccetera. Una mezzo porcheria, così, diciamo, non è granché. Ha fatto il record degli incassi, sentivo, perché non è che ci fosse chissà che cosa di film, capito? Di prima visione. Però diciamo era simpatico un po', dai, giusto per farmi 2 risate. A te il mic, Gianni. So quei filmetti perché c'è Checco Zalone, capito? Vanno perché fa ridere, è comico, so quei filmetti che ti portano un po' fuori dalla vita quotidiana, che ti fanno un po' sognare, ridere, fare, capito? Poi esci pure dal cinema e ritorni in alla realtà. Esatto, dai, un po' ti distrai a vedere i film, diciamo, già ogni tanto ci vuole, capito? È giusto per non vedere sempre i soliti film, capito, più tristi e più seri, dai, a volte sono, ce ne sono anche di impegnativi, eccetera. Ogni tanto bisogna anche sorridere. Diciamo che Zalone ha approfittato che non c'era niente, quindi ha fatto il classico film tipo Cinepanettone di Natale, nel periodo di Natale la gente ci è andata al cinema. C'era il cinema, quello moderno, in Viale Umberto, la sera a volte passo in macchina, lì pieno di gente uscendo, la fila per entrare, capito? Lì c'è la multisala, capito? E c'era un via vai, addirittura hanno riattivato anche il, come si chiama, il, l'altro cinema pure, quello che c'è di fronte, il teatro Alverdi, anche quello stava funzionando, mi sa che l'hanno proiettato anche lì. E quelli sono rimasti i cinema Sassari, prima era pieno, c'era il Quattro Colonne, c'era il Rex, c'era lo Smeraldo, ce n'erano pochi di cinema. Adesso ne sono rimasti 2 soli, anche quello è andato in fallimento. Quell'Ariston Casa era un cinema che era sempre pieno e è andato in fallimento, non capisco come abbia fatto. E questo che c'è qua giù in Viale Trento, sì, l'Ariston. Sì, lo Smeraldo me lo ricordo, io c'avevo nonna che abitava in via Valdetta e quindi quando ero piccola a Natale andavamo da nonna, poi ci dava i soldi, no? E giocavi a tombola, eccetera, e quindi ce ne andavamo al cinema e mi ricordo con mio fratello, andavamo lì allo Smeraldo, capito? Che è rimasta anche quella sala, la usano per convegni, a volte anche per proiettare film per le scuole, visto che la usano, capito? C'è ancora, anche quello era grandicella come sala, capito? E prima andavano alla grande, capito? Da Quattro Colonne, Ariston, il Moderno, insomma, Smeraldo, ce n'erano, e andavano tutti. Adesso, diciamo, quello che c'è, diciamo, ci prendiamo, ma diciamo il Moderno come l'hanno organizzato già sta andando bene, giusto? E quando c'è qualcosa di nuovo la portano e ho visto che la gente già ci va. Io sono una vita che non vado al cinema, non ci sto più andando. Prima da ragazzo già ci andavamo spesso e poi non ci sono più andato. È una vita che non ci vado più, ma c'era anche quello di San Giuseppe, come si chiama quello lì? Quello lì era un cinema che trasmetteva solo film pornografici. Sì, che c'era la scalinata, già me lo ricordo anche quello. E lì c'era la diciamo tutta la saccia di bene ci andava lì, dai. Me lo ricordo anche quello. Ce n'erano. Ma anche a Bonorva c'era il cinema, c'era anche a Tiesi. A Bonorva era la coppia identica del cinema moderno, capito, di Sassari. L'aveva fatto lo stesso ingegnere ed era leggermente più piccolo, capito, ma era identico, c'era la sala su, quella di giù, quindi tu entravi lì e a volte sembrava quello di Sassari, capito. E poi hanno chiuso tutto nei paesi, non è rimasto più niente, però sino agli anni 80 funzionavano tutti e poi hanno chiuso. Mi ricordo qualche titolo famoso, Biancaneve sette nani, e poi c'era l'altro, ma sempre a livello Paul, no? Poi c'era Le pornobulle di Eva, tutti i film che si vedevano passando lì, ma ci andavano tutti depravati lì, per carità. Sì, mi ricordo Giovanna Coscialunga, davano, capito? E invece nei paesi quelli li davano un po' in silenzio, capito? Ma la domenica c'erano sempre film western, oppure c'era film tipo Lo Squalo, i film di Dario Argento, allora andavano forte, Quattro mosche di velluto grigio, Profondo rosso, tutti quei film lì, io li ho visti sempre al cinema, capito? Allora in televisione non davano niente, c'erano i soliti programmini, tutti i canali, capito? E quindi al cinema si andava. Poi dal lunedì al mercoledì davano anche lì qualcosa di porno, capito? Ma ci andava poca gente. E anche perché nei paesi si è conosciuto il cinema di Tisi, dove noi avevamo il supermercato, capito? C'era il cinema di prima, dove noi avevamo il supermercato, poi vabbè, l'abbiamo chiuso anche a Bonova. Ci avevamo il supermercato, noi siamo a Bonova e a Tisi, il Tourist Market, non so se ne hai sentito. Sì, me lo ricordo, mi sa che aveva aperto di fronte, proprio all'ingresso del paese, di fronte ai carabinieri era, se non sbaglio. Sì, e poi a Tiese invece, dove c'è quello spiazzo, dove c'era il cinema. Sì, già lo so dove i Tiesi lo conosco bene. Ho fatto la giovinezza in quei paesi lì, un amico anche di Tiesi, più di uno a dire la verità, ma un grande amico, che poi si è sposato e se n'è andato a Bonorva ad abitare, perché la nonna ce l'aveva a Bonorva e quindi la casa era rimasta vuota e la nonna era morta e quindi lui se n'è andato ad abitare a Bonorva, però la famiglia erano, il padre era di Tiesi, capito, e loro abitavano lì, c'erano i ragionieri come scuola superiore a Tiesi tanti anni fa, credo che abbiano chiuso tutto, così come a Bonorva c'era il classico, c'era l'istituto professionale per l'agricoltura, c'erano anche diverse scuole superiori, capito, nei paesi, e adesso non è rimasto più niente. E hanno trasferito tutto a Sassari, adesso se vuoi andare a scuola devi andare a Sassari. Sì, esatto, l'unico centro grosso che forse li ha mantenuti un po' di scuole sono Macomer, che è ovviamente provincia di Nuoro, e Ottieri, perché Ottieri c'ha il classico, mi sa, lo scientifico, i geometri, e forse qualche altra scuola, ma com'è lo stesso, aveva il liceo classico, lo scientifico, i geometri, i ragionieri, capito, le industriali anche andavano forte a Macomer. E poi vicino a Macomer, a Bara, come uscivi da Macomer dovevi fare Macomer e Posa, proprio all'inizio, il primo rettilineo sulla sinistra andando verso Posa c'era la scuola professionale per l'agricoltura, anche lì c'era il convitto, e quella però faceva parte della provincia di Nuoro, però gli studenti ci andavano comunque, capito? Avevano quella e basta, se no doveva andare da un'altra parte, è normale. E vabbè, i cinema comunque sono spariti quasi tutti, non stanno più facendo affari, perché con la storia che trasmettono film al televisore, sta perdendo molto il cinema. E io, vabbè, ho scritto del video, tutti quei film che hai nominato, di Dario Argento, c'ho tutta la collezione. C'ho da Profondo Rosso a La Sindrome di Stendhal, tutti quanti. E allora i film di Dario Argento andavano forte, capito? Infatti quando ne usciva qualcuno faceva sempre il pienone, capito? I western, c'erano tutti quei western all'italiana, Bud Spencer, quando eravamo ragazzini si andava al cinema a vedere quelle cose lì. E insomma già era divertente, certo adesso è cambiato tutto, cinema chiusi, ormai la gente si fa gli abbonamenti con Sky, c'è Sky Cinema oppure con Netflix, così come altre emittenti che fanno l'abbonamento, capito, ci sono altri canali, tutti con abbonamento, è ovvio, e ti fanno vedere anche i film di prima visione. E anche le prima c'erano i negozi che affittavano i CD, i DVD, insomma, e anche quelli hanno tutti chiuso. Non, mi sa che non è rimasto più nessuno, se non sbaglio, già vero? Sì, no, non ne ho più sentito, a meno che quel Cine Radio, quello che c'ha al corso, qualche cosa forse fa. Io mi avevo fatto trasferire lì la cassetta del mio matrimonio, che era in cassetta normale VHS, me l'ho fatta fare i CD e il DVD, e me l'ha fatto bene, con 10 euro me l'ha trasferito, e vabbè, adesso non ne guardo più. Comunque quando lo guardavo, mettevo il DVD e si vedeva benissimo. Sì, sì, sì, io lo stesso, io avevo il filmino, lo stesso in cassetta, e poi ero riuscito io con, avevo un lettore di cassette, no? Il videoregistratore, e me l'avevo fatto io perché avevo lo stesso il lettore videoregistratore in CD, capito? Me li avevo passati così, capito? Però poi se non li usi anche i CD dicono che col tempo si rovinano, eccetera. Quindi forse conviene poi dal CD magari collegarli al computer, magari metterli anche nella memoria del computer o in una memoria esterna, in maniera tale che così, capito, se si dovessero rovinare in un supporto magari te li ritrovi nell'altro. Io lo stesso, mille cose salvate, ho due hard disk esterni che sono uno da 500 GB, l'altro è da 1 TB, capito? E poi c'è anche un sacco di chiavette di quelle USB che sono ne ho da 64, ne ho anche più grandi di memoria. E lì c'ho foto di viaggi che ho fatto, capito? E tutto salvato, duplicato, capito? Perché non si sa mai che si rovina un supporto, capito? È sempre l'altro. E ormai è così, è tutto salvataggi. Ehi, Carlo, io ho DVD. Quelli che ascolto di più sono i Queen e quelli di Gianna Nannini. Praticamente quelli che ascolto di più si sono rovinati, ce l'ho meno tempo degli altri e gli altri sono tutti intatti, funzionano bene, sono anni che non li uso, li metto e vanno bene. Questi qui me li hanno regalati da poco e non vanno più bene, saltano, si inceppano, ho provato anche a pulire la testina perché io ho anche il CD che pulisce la testina, ho inserito quel CD, l'ho fatto pulire e niente da fare, li ho puliti con l'altro. Ma non c'è nulla da fare, perché mi rompe un me perché ci sono tutte le canzoni che a me piacciono di qui, mamma mia, e non riesco più a ascoltarle come voglio io, perché io di solito lo metto il sabato quando faccio pulizia e cose, che mi pulisco tutta la casa dalla Z e poi mi faccio la